Sono con Fabio Mauri, presidente dell'associazione Succede Solo a Bologna, in occasione di questa stagione che sta per inaugurarsi tra pochi giorni del Teatro Mazzacurati. Innanzitutto, buongiorno Fabio, volevo chiederti che cos'è esattamente l'attività di Succede Solo a Bologna. Succede Solo Bologna è un'associazione che si occupa di gestire dei monumenti al fine del restauro. Creiamo dei percorsi turistici e delle raccolte fondi al fine di mantenere, manutenere e restaurare i beni che abbiamo in gestione, che ci sono stati appunto assegnati da, in questo caso, Regione Comune o da altri enti. Abbiamo tutta una serie di percorsi turistici, abbiamo una serie di visite guidate, quindi è un'attività anche di redazione, pubblicazione. Abbiamo molte, è un'attività 360 gradi di cura e tutela del territorio. L'anello di congiunzione, diciamo, con l'attività del Teatro Mazzacurati. Allora, il Teatro Mazzacurati ci è stato assegnato dal Comune attraverso il bando nel 2022, cioè l'assegnazione 2021, abbiamo iniziato nel 2022. L'obiettivo è quello di creare attraverso i nostri partner, Fantateatro, Teatro Perando, Fraternal Compagnia, e attraverso tutta una serie di altre collaborazioni come col Conservatorio di Bologna, con la Fondazione Liszt, eccetera, una stagione che porti le persone non solo a rivivere il teatro, ma anche a trovare i fondi per mantenere questo teatro e andare ad agire dove è necessario nella manutenzione ordinaria. Se volessimo dire qualche titolo, qualche chicca della stagione, cosa potresti dire? Tutte le realtà che abbiamo coinvolto hanno più di una chicca, quindi invito tutti quanti a scoprire tutta la programmazione di tutte le realtà. Diciamo che con Passioni in Musica, ovvero con la collaborazione col Conservatorio, è una chicca particolare perché saranno 16 spettacoli completamente gratuiti. A fine dello spettacolo chi vorrà farà una donazione in base a quanto gli è piaciuto, e ad esibirsi saranno sia i docenti ma anche gli allievi, quindi i giovani che avranno la possibilità di mettere in pratica quello che studiano. Quindi è una donazione proporzionale al gradimento, una formula particolare. Sì, esatto, così vediamo insomma quanto è piaciuto.